Che bella cosa è naire nate sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è naire nate sole. Notte io sole se ne scende, ma bene quasi una malinconia, sotto la finestra toglia restar lì. Quando fa notte io sole se ne scende. Yeah.